Qui infatti lì è il momento in cui questo, infatti questa introduzione è del maggio dell'82 ed è il punto in cui già entravano i dubbi in me e anche in Renato. Lì immediatamente noi abbiamo questa sensazione di essere stati giocati noi diciamo dai fantasmi, infatti questa è la sensazione immediata, giocati dai fantasmi del passato, dell'ideologia, del marxismo, della classe operaia e forse giocati anche da persone più concrete. Dopo il giornale radio, la storia Mix 24, curata da Marina Milone, con una storia di una voce straordinaria, la voce di Mia Martini. Mix 24, la storia. Io per principio, come produttore in tutta la mia vita, non ho mai avuto dei rapporti sessuali o sentimentali con le attrici dei miei film. Un giorno, stando a Via Veneto, io e Peppino De Santis, vedemmo sul muro un manifesto elettorale della Democrazia Cristiana con la faccia della Silvana Mangano, che non conoscevamo. Peppino, io dico, De Santis, questa mi sembra la ragazza per noi, dobbiamo provarla, fagli un provino. E lui fu d'accordo, la chiamamma, lei inizialmente si rifiutò di fare il provino, poi accettò di fare il provino e quando insieme all'ingegner Gatti e all'avvocato Corino vedemmo il provino e dicemmo questa è una star, esce pure dallo schermo e così nacque Silvana Mangano che poi divenne mia moglie. Fretta e furia le clandestine incominciano ad andare. Silvana era una donna che non amava la pubblicità, non amava stare sulle copertine dei giornali, rifiutava sempre di farsi fotografare, preferiva stare con se stessa. Era una donna umile e semplice e infatti lei inizialmente non voleva fare l'attrice. E ogni volta che gli chiedeva di fare un film era un problema a convincere, era anche convinta di non essere capace di recitare, però un po' alla volta si convinse e i grandi registi la convinsero che lei poteva fare quello che poi ha fatto. Io non l'avevo mai visto nella realtà Silvana. A un certo punto, prima dell'inizio dello spettacolo, mi sono voltato e dietro di me c'era questa apparizione straordinaria, che era completamente diverso di come appariva sullo schermo, completamente diversa, era una faccia, che posso dire, una cosa, una scultura egizia, ecco, compatta, misteriosa. Tutto il tempo dello spettacolo io ho tentato con mille scuse di voltarmi per guardarla perché era veramente una apparizione indimenticabile. Silvana Mangano era un personaggio, una volta si usava un termine, ora non si usa più, ineffabile. Cioè di lei si conosceva una certa parte, l'altra parte con grande, diciamo con grande aristocrazia psicologica, la teneva per sé. Una diva felice poteva apparire al passante, moglie di un grandissimo produttore, diventato grande produttore anche in America, e invece il destino l'ha colpita amaramente, ecco. Una donna misteriosa, ineffabile e complessa, Silvana Mangano, classe 1930, una diva straordinaria che ha avuto una carriera straordinaria. Ha esordito come Mondina in Riso Amaro, poi è stata l'Algida, madre di Tazio, è morta a Venezia e per Visconti ha interpretato anche Ludwig e Gruppo di Famiglia all'Interno. Ha lavorato con Totò, con Pasolini, con Monicelli, con Michalkov, con Alberto Sordi e con attori americani del calibro di Kirk Douglas, Burt Lancaster, dalle risaie a Hollywood. al fianco del produttore Dino De Laurentiis, suo marito e padre dei suoi quattro figli. Insieme a Sofia Loren, a Gina Lollobrigida, è stata l'unica vera grande star di casa nostra a imporsi all'estero. Eppure Silvana Mangano resta un enigma, una donna impenetrabile, quei occhi brillano di un'inspiegabile malinconia. Questo, insomma, è un ritratto commosso e commovente, più che di una donna, più che di una diva, di un'anima. Così il ricordo del costumista Piero Tosi e del regista Carlo Lizzani. Siccome lei lavorava in una sartoria in via Veneto come manichin, e l'ufficio della preparazione del film Il riso amaro era proprio vicino, e lei, siccome aveva fatto un'apparizione in un film, Elisir d'amore, dove erano state pagate come figurazioni speciali Silvana, Lollobrigida, tutte le Miss Italia di quegli anni lì. E lei naturalmente è andata a presentarsi all'ufficio di De Santis, ma per tre volte è stata scartata. Si presentò al provino con un trucco che si era fatta da solo, un po' vistoso, il contrario poi di quella che sarebbe stata la sua linea in tutta la vita, insomma. Il racconto di Peppe invece è emozionante, questo: il giorno dopo lo incontrò a Piazza Barberini sotto la pioggia, lei non era truccata, aveva questi capelli bagnati, e lui ebbe l'illuminazione, è lei. De Santi ce l'ha detto: signorina, ma lei farebbe un provino? E lei ha detto: ma no, io sono venuto già tre volte e mi avete scartato, perché ero una anche forte. Però facciamo il provino. Silvana Mangano diventa simbolo di un'Italia diversa, di una donna presente anche nel lavoro. Così l'ha detto stampa Enrico Lucherini e il regista Mario Monicelli. Era nell'acqua che cantava con le calze strappate, i pantaloncini aderentissimi, cioè insomma veramente era veramente l'attrice italiana più sexy del mondo. Beh, quel manifesto che apparve strepitoso là con lei, con quei short, fu una cosa clamorosa in tutto il mondo, non si vedevano cose del genere allora. Nel 1949 Riso Amaro decreta il successo di Silvana Mangano. L'attrice sbarca a Buenos Aires e viene accolta da 40.000 persone acclamanti all'aeroporto. Come lo ricordano il regista Carlo Lizzani, ancora l'ha detto stampa Enrico Lucherini e la critica cinematografica Alessandra Levantesi. Silvana Mangano non si accomoda sul successo di Riso Amaro, anzi piano piano cercava di liberarsi dalla parola sex symbol. A lei non gli piaceva di andare nelle copertine con i titoli sui giornali, la nuova sex symbol del cerimonio di Italia. Lì c'era la Lore, la Lollobrigida, quindi... Io ricordo che frequentando casa De Laurentiis, lo studio De Laurentiis, non ho mai visto al muro una bella foto di Silvana Mangano, di Riso Amaro. Cioè, un'immagine che lei ha voluto come cancellare, non per ingratitudine. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix24, oggi raccontiamo la vita di un'attrice indimenticabile, Silvana Mangano. Il matrimonio con Dino De Laurentiis segnerà profondamente la sua vita e la sua carriera, come raccontano Mario Monicelli, Tullio Kezic e Furio Scarpelli. De Laurentiis il suo nome ne combinava, perché lei era diventata una diva internazionale e si poteva fare presto combinare dei film anche importanti, anche... però lei faceva molta fatica, spesso rifiutava, non era facile convincerla, era una battaglia che doveva fare lui. Cos'hai? Strano, lo stesso viso fiero, lo Perché è strano? La differenza fra una donna e l'altra non sta forse nella mente dell'uomo? Lo faceva quasi per dovere familiare, per dovere verso Dino, che le faceva fare una vita straordinaria, no? E lei questo aveva una riconoscenza interna per questo. È stato di grande aiuto, ma anche di gran, ma anche a volte ha impedito certe cose. Per esempio, nella Dolce Vita, lei doveva fare il ruolo di Anouk Aimée e credo che Dino abbia accantonato la proposta. Non so la ragione, ma perlomeno me l'ha detto Federico. È stato anche importante il ruolo della Mangano nella carriera di Laurentiis, eh? Le cose sono state reciproche, voglio dire, si sono dati, aiutati tutti e due l'uno con l'altro. Nella Grande Guerra fa questa prostituta che fa il suo mestiere addirittura con le truppe. Lei lo faceva con divertimento, gli piaceva e con molta grinta anche, e con molta personalità, alla pari con Gasma che era uno che aveva una forte personalità. Ci vediamo! Guarda che chiamasso sei! Forse o mascalzone! Vieni qua! Era contentissima, si divertiva moltissimo. Mi ricordo che si dispiaceva quando le cose erano finite. Era convinta che tutti quanti, il pubblico fosse buonaccione, che fosse alla fine fosse di bocca buona, che accettasse anche la sua. Recitazioni che secondo lei era così, non era di grande qualità. Una bravissima attrice che forse ha avuto il problema che per carattere, per essere troppo schivo, non è stata una grande promoter di se stessa, perché non le interessava. Così Aurelio De Laurentiis, una grande attrice dal carattere schivo. Questa è Silvana Mangano. Così la ricordano la figlia Veronica e Piero Tosi. Lei non era capace di dire che le piaceva recitare, però era bravissima, era sempre preparatissima. Però non riusciva, se tu le dicevi mamma quanto sei brava, lei non poteva accettare un complimento. Lei amava moltissimo fare il carattere. Vuoi tentare di abbellirla? Lei aveva subito fastidio. Il cinema la mette alla prova e Silvana Mangano accetta di farsi rasare a zero. Con questo atto di umiltà verso il proprio mestiere, la mondina di Riso Amaro dimostra di aver meritato giustamente nella sua carriera il ruolo di prima donna. Così la testimonianza del critico Tullio Kezic e del regista Carlo Lizzani. Silvana non aveva nessuna preparazione artistica, tecnica, non aveva mai fatto teatro, non aveva l'uso delle prove, della preparazione, della parte a memoria, era una presenza, no? Però quando lei arriva per esempio a fare Il processo di Verona è sorprendente. Sei tu finalmente, guarda che non è tua figlia che ti supplica, ma la contessa Ciano che ti parla. Ho qui i diari scritti da mio marito, il tuo ex genero, e voglio leggertene qualche rigo prima di fargli avere a Churchill, a Badoglio o al New York Times. Ma lei dice: io sono anche brava, voglio dimostrare che cominciò a rifiutare di farsi doppiare, cominciò a recitare con la sua voce e io appunto raccolsi questa evoluzione che avevo un po' seguito ma che non mi aspettavo così profonda. Star shining bright above you. Dato che doveva rappresentare il personaggio di Edda Ciano, che non è una donna, insomma, poteva essere simpatica, ma insomma mascolina, cioè, volle proprio mascolinizzarsi, cioè, quindi proprio era la grande occasione per dire rovescio la mia immagine. Poi sul set, disciplinatissima negli orari, nel trucco, nella preparazione, sempre pronta, sempre anche in piedi, pronta a entrare in scena senza mai nessun così, nessun lenocinio dal punto di vista del divismo, eccetera. E al tempo stesso, quindi grande preparazione, ma al tempo stesso naturalezza. È molto difficile perché Daciano è un personaggio abbastanza importante, perché mi pare una donna piena di personalità. Ce ne ha tante di cose importanti da tirar fuori. Ora mi sembra che la più importante sia la rabbia, proprio la rabbia. Io non sono più una Mussolini. Ti sfido, fammi arrestare se hai il coraggio. Avanti, consegnami alle SS. Ti sfido, fammi fucilare con mio marito. Provo almeno ad essere feroce come Hitler, ma fino in fondo! Quell'anno Silvana Mangano prese tutti i premi, ma anche lì molto controverso fu il suo comportamento, perché da una parte era orgogliosa di questi premi, però era anche molto timida, cioè aveva paura del pubblico. Silvana Mangano ama moltissimo Dino, ma nei suoi confronti sembra sprezzante, ma forse è solo il suo atteggiamento. Così Alessandra Levantesi, Tullio Kecich e poi ancora le figlie di Silvana, Veronica e Francesca. Questo matrimonio tutti lo descrivono con un Dino affettuosissimo, addirittura sollecito, ecco, sempre pieno di cure, di attenzioni, e una Silvana, diciamo, al limite dello sprezzante in alcune situazioni. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? I figli per lui erano tutto, la moglie era veramente la figura di riferimento della sua vita. E per lei non si può dire altrettanto nei riguardi di Dino, però non si può neanche dire né che l'abbia tradito né che l'abbia minimizzato. Affettava dei modi abbastanza bruschi, lo chiamava De Laurentiis per esempio, no? Anche davanti alla gente, senti De Laurentiis, no? Quindi era molto strano in questo. Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Le immagini che vedevo di mia madre era che lei comandava e lui era in adorazione di lei, e questo è quello che vedevo da bambina. Però poi mi sono resa conto che in fondo era mio padre che le diceva quello che doveva fare, lei lo faceva. C'era sempre questo chi dominava chi. La bella signora De Laurentiis nella vita privata è semplice e cordiale, tutta presa dall'affetto tenero e prepotente per i suoi tre piccini. Ecco la sorpresa nella sua villa della Riviera. Scende tranquilla verso la piscina dove Veronica e Raffaella già l'attendono facendo la schiuma. Il bagno è finito. Ora un po' di elioterapia, interrotta dalle affettuosità rumorose delle piccole e quelle più tranquille del grosso cane che porta il nome di un film e di una danza. Mambo. Ma Silvana ama egualmente i suoi piccoli, ed anche Federico, l'ultimo nato, ha diritto all'attenzione materna. A lui tocca la passeggiata in carrozzina, e poi la sua porzione di baci e di carezze. Dino, anche nei primi anni del matrimonio, mi ha raccontato che lei rimaneva nella sua stanza fino, certe volte, anche alle 2 del pomeriggio, e lui spesso si trovava a mangiare solo quando tornava, perché lei si alzava tardi, rimaneva chiusa nella sua stanza. Questo lato pigro di Silvana, no? È abbastanza importante, completamente in contrasto con quello di Dino, così energico, così scoppiettante, lei molto più calma. Mi ricordo che nei momenti brutti lei si chiudeva in camera e se la chiamavano al telefono diceva sempre, faceva dire la signora non parla al telefono oggi, e si chiudeva in camera da letto per giornate intere senza mangiare, senza parlare con nessuno. Noi dovevamo bussare alla porta, mi ricordo mio fratello scavalcava, saliva su per le finestre, apriva la finestra per cercare di vedere come stava, e poi ci apriva la porta per andare a parlarle. Allora ci arrampicavamo per i muretti e Federico entrava per le finestre. Per me Federico lo faceva, però era molto triste, era sempre molto triste. Forse Qualcuno diceva che c'era stato un mistero all'origine, che c'era stato addirittura un brutto fatto nell'infanzia, che non ho mai capito cosa fosse, non si potrà mai più stabilire che cosa poteva essere, ma certo era una donna vulnerata in qualche modo. Mia madre aveva un carattere veramente freddo, lei era gelida, non era capace di esprimere l'amore che aveva, cioè so che amava tutti noi moltissimo, però siccome non amava se stessa, non amava se stessa. Silvana Mangano è riservata, non partecipa mai a feste, raramente a cocktail, sta chiusa in casa e indossa gli abiti da sera per scendere a cena, quando ci sono degli amici e soprattutto per le figlie. Così la raccontano Mario Monicelli, la costumista Bruna Parmesan e la figlia Veronica. Dopo cena Dino andava a dormire presto e allora era tutto contento se noi stavamo lì per passare la serata insieme a Silvana e lui se ne andava a dormire, perché la mattina lui doveva alzarsi presto, aveva tutte le incombenze del produttore, però era simpaticissima a vivere la serata, a stare insieme, a scherzare, a fare i giochi. Ricordo che noi andavamo la domenica spessissimo a casa loro, ogni domenica alla Pia Antica, e là era da sola che parlava, le piaceva molto parlare da sola. E allora si scatenava proprio, e allora piaceva molto ballare. Tengo gana de bailare il nuovo compa, dicen todo quando me ven pasar. Chicago me va, me voy pa bailar. El Bayon, tengo gana de bailar el nuovo compa, dicen todo quando me ven pasar. Chicago me va, me voy pa bailar. Lei aveva questo sogno di essere ballerina e non l'ho sentito una volta, ma mai da lei. Cioè lei io mi ricordo che davanti allo specchio ci faceva vedere tutti i passi di danza e ci diceva come farli, però non ha mai parlato di questo sogno non realizzato. Come mai sta passando qui il Capodanno della Lenzi? Dunque guardi, noi per abitudine tutti gli anni passiamo qui le feste di Natale, di Capodanno. È una consuetudine tutta la nostra famiglia di venire qui a mezzogiorno del 31 e poi facciamo la festa a casa nostra per la mezzanotte, dove aspettiamo tutti gli amici e tutti i nostri parenti. 21 colpi per Silvana Mangano. Anche lei è stata catturata, come esige la migliore tradizione salgariana. L'incontro con il marito prigioniero dei pirati non è tra i più commoventi, ma poiché non si tratta della scena di un film, non si può pretendere di più da un'attrice. Questo dimostra che nella vita reale le dive sono riservate anche con il marito. Gli altri intorno, grandi e bambini, si divertono, moderatamente. Chiediamo alla signora Mangano che cosa spera dal 63. No, io spero tutto quello che ho avuto fino adesso. Basta, niente di più, non voglio niente di più. Va bene, ma qualcosa di particolare lo vorrebbe? Niente. Davvero non vuole proprio niente? Quello che ha avuto fino adesso e basta. Ma allora che cosa ha avuto? Ma mi pare anche abbastanza, no? Una donna che dalla vita ha avuto tutto ciò che desiderava, anche questo è Silvana Mangano. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la vita di un'attrice di successo, Silvana Mangano. Madre di 4 figli, moglie del produttore Dino De Laurentiis, la Mangano vive un'intensa amicizia con Alberto Sordi, così la raccontano Tullio Kezic, la figlia Veronica De Laurentiis e Bruna Parmesan. E poi c'era un aspetto molto particolare che metteva in luce Alberto Sordi con la sua amicizia e anche, io credo, con il fatto che era innamorato di lei, e la sua presenza costante in casa di De Laurentiis, dove c'era sempre un po' di tensione, c'era sempre un po' di rammarico, perché Dino era molto occupato, arrivava tardi, partecipava poco alla vita della famiglia, avendo tutti questi problemi, eccetera. E invece Sordi era molto presente e con lui Silvana si divertiva. Thank you. Io lo chiamavo zio Alberto. Sì, lui l'amava tanto. Alberto Sordi era sempre a casa nostra, sempre a casa nostra, e adorava mamma. Era bello perché la faceva ridere, e a me piaceva quando lui veniva perché era allegro, era spensierato, era sempre pieno di vita, era bello. E Dino, ho l'impressione che fosse in qualche modo un po' geloso di non dei fatti concreti, ma del fatto che c'era un uomo che riusciva a trasformare Silvana, a renderla più normale, a renderla più colloquiale, a renderla più anche simpatica. Sordi proprio aveva una tenerezza infinita, la guardava e quasi si commuoveva perché la trovava, le faceva le carezzine, insomma era una cosa proprio, si progiolava in queste cose. Lui era molto legato, e poi naturalmente subito le chiacchiere, diceva che l'unica donna che lui ha amato è stata Magra, stupidaggine. Non credo che ci sia mai stato niente di più, forse una grande simpatia, un amore da parte di Sordi, che come si sa era uno scapolo, era uno che non aveva trovato la donna della sua vita. In un grande albergo di Roma, ultime riprese del film La mia signora, interpretato da Silvana Mangano, che centellina le sue apparizioni sul set, trasformando però ogni suo personaggio in un piccolo saggio di recitazione. In questa parte, che rinnova oltretutto il suo sodalizio artistico con Silvana Mangano, Sordi riserva un'ennesima sorpresa. È un Don Giovanni, sicuro del suo fascino tutto occhiate, che scivola però nei toni patetici. In tempo di crisi del cinema, la coppia Mangano-Sordi è come il rosso di sera per la meteorologia. Ora, Silvana Mangano ha fatto delle cose abbastanza nobili, tutto sommato, sempre, e ha fatto anche qualcosa di molto popolare perché aveva una grande, fortissima amicizia per Alberto Sordi. E lei si prestava a fare qualcosa di popolare che non apparteneva al suo modo d'essere, perché aveva quel che di aristocratico, diciamo, usiamo questo termine, di raffinato, di sottilmente suggestivo, che non poteva spingerla ad essere naturalmente, organicamente popolare. In questo tipo di commedia Silvana Mangano ci si inserì con il piacere di divertirci. Queste le parole dello sceneggiatore Furio Scarpelli. E poi nella vita di Silvana c'è la frequentazione di personaggi come Visconti e Pasolini, il piacere di sentirsi apprezzata da artisti che nel frattempo sono divenuti protagonisti della cultura italiana. Così la ricorda il critico cinematografico Alessandra Levantesi. Era una donna che voleva migliorare il suo spirito e la sua dimensione interna, diciamo, in un mondo in cui le pareva che tutto questo non fosse possibile. Lei il mondo del cinema l'ha sempre visto un po' volgare, esteriore. Con Pierpaolo Pasolini, con cui lavora, nasce una grande amicizia. Poi con Moravia ed altri, come raccontano Aurelio De Laurentiis e Veronica, la figlia di Silvana e Dino, e il costumista Piero Tosi. Dino è un uomo che ha acquisito attraverso la propria esperienza una cultura effettiva ed obiettiva. Silvana si è sempre sentita meno amata da un punto di vista culturale e quindi ha cercato la cultura attraverso l'acculturamento. Vita, lei, diceva Pasolini, aveva come un vetro, c'era proprio un vetro tra lei e la vita, però al cinema quel vetro se ne andava. Pierpaolo, che non amava gli attori, proprio non li amava, perché lui amava avere delle persone e usarle come oggetti, ecco. Ecco, Silvana è stata amatissima da Pierpaolo. Era riuscita a fare i film che le piacevano con Pasolini, con, con Visconti e la soddisfaceva. Tra lei e Visconti nasce una grande intesa, tanto che il regista la sceglie per fare interpretare il personaggio di sua madre nella morte a Venezia, un incarico che non avrebbe dato a chiunque, e ce lo racconta la stessa Silvana e il costumista Piero Tosi. Non me ne parlava mai direttamente, però capivo, ne raccontava la maniera come la mamma si metteva ai guai. Voleva vedere come io ero capace di metterla da sola, di metterlo da sola, questo guallo, questa sciarpa, queste cose. Per cui io mi eccitavo e nello stesso tempo mi impaurivo sempre di più. Però poi alla fine mi disse, ecco, veramente, non solo per il fatto di morto a Venezia, la madre di Tazio, la madre della bellezza, della morte, sei... Nel mio ricordo sarai anche te abbinata a mia madre. Era il tramonto e Visconti girava giù al Deben, Silvana era vestita ed era il crepuscolo, era contro la finestra e aveva un armoire con un grande specchio e lei si accingeva a mettere i gioielli suoi personali bellissimi. E io ho avuto la sensazione che vivevamo in quel momento lì il momento del film e che Silvana era veramente quel personaggio. È stata un'impressione, è un ricordo indimenticabile. Isn't it rich? Silvana Mangano ha il talento di un'attrice, ma spesso teme di non essere all'altezza. I due personaggi in Ludwig e in Gruppo di Famiglia sono due personaggi ambigui, duri, ma avvalendosi del suo charme innato riesce lo stesso a imporsi e ad accattivare gli spettatori. Così ricordo di Piero Tosi e dello sceneggiatore Enrico Medioli. Il personaggio dell'interno di Famiglia io credo che in qualche modo invece gli assomigliasse, non per l'aspetto borghese, spocchioso, ma certe cose di carattere sì, certe cose, perché Silvana poteva essere anche aspra come le è quel personaggio. È stata una grande prova, voglio dire, di affetto e di lealtà verso Visconti. Quando un regista non è più tanto in salute, allora ci sono tante ragioni di assicurazioni burocratiche, per cui non è così semplice per lui montare un film. E allora sia Lancaster che la Mangano, con la loro presenza, garantivano un po' del buon esito del film. La vedevo quando Luchino era infermo e lei lo veniva a trovare ed era molto elegante, ma io parlo che anche era la sua eleganza del cuore che la facevano una persona così, così rara e così speciale. Un animo nobile, come racconta Enrico Medioli, ma soprattutto fedeltà e riconoscenza nei confronti del grande Luchino Visconti. Mix 24, la storia. Rieccoci con il ritratto di una diva, Silvana Mangano, ma soprattutto di una donna. Così ci racconta lei stessa del suo rapporto con Luchino Visconti. Un giorno è arrivato Losi e mi ha proposto di fare il Proust, lo stesso personaggio della principessa Germana. E beh, io dissi no. L'ho promessa a Visconti, se lo fa Visconti lo faccio anch'io, altrimenti non lo faccio. Un giorno è arrivata una grandissima rosa viola del suo giardino con affetto, firmato Luchino, e ho capito che gli era stato detto del mio rifiuto e probabilmente lui era contento di sapere che c'era qualcuno che non tradiva di tanto in tanto. Così si racconta la stessa Silvana. Passata sotto la tutela di Pasolini e di Visconti, i registi giusti per le sue ambizioni, sembra che il matrimonio si sfasci. come racconta Alessandra Levantesi. Quando lui decide di andare in America, perché ha una situazione in Italia anche difficilissima economicamente, racconta di essere andato da Silvana e di averle detto: io vado in America. E lei ha detto: vengo con te, veniamo tutti. Qui Broadway vi parla Ruggero Orlando con una bella famiglia italiana, la famiglia De Laurentiis. Silvana, una parolina. Una parolina, no, non posso, non riesco a parlare, no. Io, neanche in italiano. Neanche in italiano, come mai? Comunque, spero che vada tutto bene. Per lei fu all'inizio un momento rigenerante, perché New York è frizzante, divertente, però Dino capiva che il vero business non era New York, ma era Los Angeles. E quindi si trasferì a Los Angeles e lì Silvana cominciò a così incupirsi. Lei è sempre un po' sofferto di depressione, perché lei, da quando io sono nata, l'ho sempre vista che ha fluttuato in momenti di tristezza, di depressione. Però credo che essere venuta a Los Angeles sia riandata ancora, si è proprio rimessa nella depressione, io credo, che l'ha trovata come una specie di rifugio. Lei ha provato a suicidarsi quella notte. Io mi ricordo che avevo 14 anni e mio padre mi chiamò e io ero terrorizzata, non volevo andare. E mio padre mi chiese: andiamo all'ospedale. E io mi sono seduta dietro con mia madre e l'ho tenuta in braccio e lei stava male. È il 1981. Una tragedia familiare comincia a distruggere Silvana e il suo matrimonio. Così la ricostruzione di Aurelio De Laurentiis e Piero Tosi. Federico aveva in quel momento deciso di realizzare come regista un documentario sui salmoni, sulla pesca dei salmoni in Alaska. E aveva praticamente utilizzato uno di quegli aerei che tutti quanti i pescatori di salmone utilizzavano. E l'ultimo giorno lui si è alzato da una parte, un altro si è alzato da un'altra, si sono scontrati e praticamente i due aerei sono crollati in questo pack. Era un figlio che gli assomigliava molto, intanto era bellissimo. L'unico maschio della famiglia, per Dino l'erede naturale, per la madre è il suo alter ego. Per Silvana la morte del figlio è la vera tragedia che determina la fine del suo matrimonio e la sua stessa lenta fine. Come raccontano Piero Tosi, Bruna Parmesan e la figlia di Silvana, Veronica De Laurentiis. Per 2 anni Silvana è andata sulla tomba a fare l'uncinetto e non usciva più di casa. Mia madre, quando ha perso mio fratello, ha scelto la morte. E morì anche l'unione col marito. E si sono riuniti per un po' di tempo e poi si sono completamente separati. Isn't it rich? È stata la tragedia umana, la fine del matrimonio. È stato veramente. E Silvana ha sofferto tanto per la fine del matrimonio. Fino alla malattia. Dopo che era successo tutto così, lei per un po' di tempo si trasferì dalla figlia più piccola, Francesca, in Spagna, a Madrid. Io andai a trovarla, che ero là per caso per lavoro, e l'ho trovata, lavorava a Piccolo Punto, tranquilla, però era morta. Silvana Mangano muore a Parigi il 16 dicembre del 1989, a 59 anni. Così raccontano Alessandra Levantesi e Tullio Kezic. Nella borsa che lei portava sempre con sé, quando poi malata andava in radioterapia a Parigi, e questa borsa, dentro c'erano tutti conservati i biglietti che avevano accompagnato alcuni dei regali di Dino, con tutti gelosamente conservati. È un personaggio che non si finisce mai di capire e che nessuno riuscirà mai a capire fino in fondo. Tutte le puntate